Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. I figli di Enea. Storie di nuovi italiani. Di Valentina Furlanetto. Buona domenica a tutti, bentornati anche questa settimana, è una domenica di ottobre, ci stiamo addentrando in queste nuove atmosfere, invece a Palermo si stanno per addentrare nelle atmosfere del Festival delle Letterature Migranti di Palermo. Dal 21 al 25 ottobre, quindi da martedì a domenica, ci sarà questa sesta edizione. Ci saranno molti relatori, tra cui Adriano Sofri, tra cui Emma Dante, Suad Amin, e fra loro c'è anche una scrittrice che ho l'onore di avere in collegamento dalla Georgia, e io sto parlando di Rushka Gergioliani. Benvenuta. Grazie, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Saluto i vostri ascoltatori, sono molto contenta di essere in onda. Scrittrice italiana che ha iniziato a scrivere in italiano quando è arrivata in Italia, perché non è originaria dell'Italia ma è originaria della Georgia, è esordito nella letteratura con La tua presenza è come una città e poi da poco è di nuovo in libreria con Tre vivi, tre morti, il suo secondo romanzo. Quando è arrivata in Italia e quando ha deciso che questa era la sua patria, anche se conserva ovviamente l'affetto, i ricordi della patria di origine? La prima volta sono arrivata nel 96 a 11 anni grazie a un programma di aiuti umanitari organizzata e promossa dal Comune di Palermo. Era un tendere la mano ai bambini vittime della guerra, ovvero che avevano, o meglio, che avevano vissuto la guerra ed erano sopravvissuti, e quindi le famiglie di Palermo e anche dei dintorni ci davano la possibilità di passare le estati, i mesi estivi con loro, e quindi cercare di darci una mano, di farci dimenticare, insomma, le terribili situazioni che avevamo vissuto. E io facevo parte di questi 200 bambini. Sono arrivata appunto a febbraio del 96 e poi sono tornata negli anni successivi, sono tornata a stare ogni estate, insomma, fino al 2007, quando ho deciso, già maggiorenne, già laureata qui in Georgia, di trasferirmi a Palermo per stare assieme a questa famiglia, per intraprendere un percorso universitario, insomma, per costruire un vero affetto assieme a queste persone, insomma, che erano diventate la mia famiglia. Te l'ho già detto una volta, mi ricordavi il mare, le luci di Natale, gli schiaffi sul sedere, lo spazzolino uguale, la panda manuale, bruciare in una notte come una cattedrale. Non è colpa mia se tutta questa luce, luce, luce non ti illumina più dentro casa mia. E non è colpa tua se tutti questi destri, destri, destri al muro e non ci fanno ritornare lì. Quindi è arrivata bambina con questo visto turistico per questa campagna lanciata proprio dalla città di Palermo per ospitare in famiglia i protagonisti, inconsapevoli, coinvolti anche in una pulizia etnica alla fine dell'impero sovietico. Com'era la vita in Georgia allora? Come la ricorda? La vita era molto precaria, eravamo sfollati, migliaia di persone senza fissa dimora, senza nessuna protezione. La mia famiglia era sfollata in un palazzo pubblico, che era stato appunto un palazzo che aveva ospitato una scuola, ed eravamo ci siamo insomma abbiamo occupato, diciamo così, assieme ad altre famiglie dei profughi, questo palazzo. Era molto dura e non era tale soltanto per noi che eravamo profughi, ma per tutti quanti, insomma. Non c'era la luce, l'acqua così arrivava, l'avevamo e non l'avevamo, insomma era una situazione davvero deplorevole. Insomma, questo aiuto che poi ci è stato dato da Palermo, dall'Europa, poi, perché poi questo aspetto di Palermo non era l'unico, poi c'erano anche altri aiuti, altri modi di darci una mano, insomma, di tenderci una mano, non era una cosa isolata, quindi questa cosa ci ha dato modo di andare avanti, di poter guardare al futuro con uno sguardo un po' più speranzoso. Come se lo ricorda l'impatto con Palermo, una città anche esteticamente così diversa dalla Georgia? L'impatto è stato impressionante, perché lei ha sottolineato bene l'aspetto dei colori. In effetti è stato un andare dal nero, insomma, scuro, ai colori, alla festa dei colori, no? Perché anche se era inverno, era febbraio quando sono arrivata per la prima volta, c'era sempre questa luce che si posava sulle cose, insomma, nonostante l'inverno, e dava questa luminosità quasi interna, non era come se la luce si posasse, era come se le cose sprigionassero la luce dall'interno. Quindi questo aspetto mi ha colpito molto ed è forse la cosa che mi ha portato a tornare continuamente, insomma, a cercare quella luce, quella prima impressione di luce di mare, quindi questo gioco di luci del sole e del mare che mi era rimasto dentro e mi ha portato a tornare a stabilirmi lì. A quei momenti lì, a quando andava tutto a gonfie vele, che mi faceva stare bene, che mischiavi romani ed inglese. Te l'ho già detto una volta, mi ricordavi il mare, gli occhiali di mia madre, le 4 del mattino, le Winston Blue smezzate, le facce come zombie, svegliarti mentre dormi, come le cazzo di zanzare. Non è colpa mia, c'è tutta questa luce. Ci sono queste persone che le hanno fatto da famiglia per qualche anno e dai quali poi è anche tornata. Erano dei semplici insegnanti. Il mio papà italiano è un architetto, ora in pensione, è stato un architetto e ha insegnato anche a scuola storia dell'arte e disegno. La madre invece era insegnante di pianoforte, quindi era una famiglia di insegnanti molto accogliente, molto calorosa, molto pronta a dare una mano, insomma, a chi avesse avuto bisogno, ed è andata così. Adesso lei ha due famiglie, no? La famiglia italiana e la famiglia georgiana. Due famiglie, sì. sono molto... Due famiglie e due patrie. Sì, due famiglie e due patrie, sì. Infatti faccio la spola tra queste due famiglie, tra questi due affetti, quindi faccio un po' questa spola emotiva e geografica, insomma, continuamente. La famiglia georgiana, come ha vissuto il suo affezionarsi all'Italia e alla famiglia italiana? La mia famiglia, conoscendomi, ha capito che ho trovato delle persone molto in gamba, che mi stavano dando, insomma, il calore di cui avevo bisogno e anche un certo ci stavano dando la mano da tutti i punti di vista, e conoscendomi, sapendo che in effetti il mio affetto era, per loro era, cioè per la mia famiglia d'origine era inscaltibile, lo è sempre stato, erano insomma abbastanza tranquilli e convinti che il mio affetto sarebbe bastato per tutti, insomma. C'è mai stato un incontro tra le due famiglie? Fino a qualche anno fa no, però c'è sempre stato un contatto telefonico quando mi trovavo lì, quando mi trovavo a Palermo, ci sentivamo continuamente, quindi loro si conoscevano, si scrivevano lettere, eccetera, eccetera, insomma c'era sempre questo legame, comunque un legame forte. Poi è arrivata, insomma, hanno invitato mia madre, è venuta a stare con me. Ed è rimasta, insomma, per qualche anno con me a Palermo. L'Italia le ha dato anche una lingua nuova, diversa, con la quale lei ha debuttato nella letteratura. È una lingua d'adozione, che è diventata la sua lingua artistica, anche professionale. Come mai ha deciso di scrivere in italiano? Non ho avuto modo di scrivere in georgiano soltanto perché nella consapevolezza, nel momento in cui mi sono resa conto che volevo fare letteratura, cioè volevo scrivere più che altro, ero all'interno, mi trovavo all'interno della cultura italiana, della lingua italiana. Quindi è come se, e non è cosa da poco, perché questa consapevolezza non mi è venuta per caso, non è nata per caso, è nata grazie all'italiano, grazie all'ambiente in cui mi trovavo, alle letture che facevo, all'aria che respiravo. Quindi è nata questa idea, questo modo di vedermi proiettata nel futuro, è nata nella cultura italiana. Quindi mi è venuto spontaneo pensare in termini di lingua italiana e pensare di farlo all'interno appunto di questa cultura e di scrivere in italiano. Non è colpa mia se tutta questa luce, luce, luce non ti illumina più dentro casa mia. E non è colpa tua se tutti questi destri, destri, destri al muro non ci fanno ritornare lì, a quei momenti lì, a quei momenti lì, a quei momenti lì. Che riferimenti della cultura georgiana, russa, italiana ci sono nella sua ispirazione letteraria? Quali sono gli scrittori che ama di più e ai quali probabilmente scrivendo inconsapevolmente fa anche riferimento? Ci sono sì, molti riferimenti sia alla cultura georgiana, in qualche modo anche russa, soprattutto per quanto riguarda il primo romanzo, e poi il secondo è tutto un riferimento alla letteratura italiana, è un omaggio proprio all'Italia. Quindi sì, io ho dei miei padri, insomma, letterari a cui. Dai quali torno molto spesso, ai quali mi riferisco quando scrivo, sì. Il suo ultimo romanzo, Tre vivi, tre morti, è ambientato a Firenze a fine anni 50. Modesto e Aurora sono sposati, fanno gli insegnanti. Un romanzo familiare, ma è anche un romanzo noir. Sì, la trama è un po' costruita, la trama è costruita in modo tale che la spiegazione della questione più importante che apre proprio il romanzo, viene sciolta, viene spiegata verso la fine, quindi la struttura ricorda un po' quella dei detective e dei noir. Però io direi che il romanzo è un romanzo storico, storico, anzi un romanzo soprattutto sull'amore, anche se non si direbbe a prima vista, però forse alla seconda e alla terza già il lettore potrebbe scorgere appunto dei tratti del tentativo di raccontare di un grande amore, o meglio di un amore normale, che è poi quello che appunto ci caratterizza e che ci condiziona e che dà il senso e il significato alle nostre piccole esistenze. Ci dobbiamo fermare brevemente perché abbiamo una piccola pausa, ma torniamo a parlare del suo romanzo tra pochissimo. I figli di Enea. E ti ricordi com'è che si fa? La vita mescolata insieme e poi divisa di nuovo a metà. Bentornati con noi, oggi parliamo del Festival delle Letterature Migranti di Palermo e lo facciamo con una scrittrice di origini georgiane, una scrittrice italiana che ha mandato in libreria poco tempo fa Tre vivi, tre morti, il suo secondo romanzo. Rushka, stavamo parlando con lei proprio di questo romanzo, diceva è un romanzo d'amore, è un romanzo familiare, è un romanzo anche noir, è un romanzo storico anche perché parliamo della storia dell'Italia, degli anni 40, degli anni 50. Sì, è una storia, questa trama si svolge sullo sfondo di un'Italia del dopoguerra, ma anche del piano della guerra, della resistenza, e anche degli anni 30, insomma, nel pieno regime fascista. È una storia che racconta delle paure, dei timori, delle pressioni, degli errori, degli sbagli, delle scelte che si fanno durante la guerra, delle consapevolezze, comunque degli ripensamenti, delle riflessioni che si fanno nel dopoguerra, o meglio, delle scelte che si fanno in un momento di difficoltà, quando appunto siamo portati abbiamo il dovere di scegliere bene, anzi. E poi, passata la crisi, siamo consapevoli che in effetti forse non abbiamo fatto la scelta che avremmo dovuto. Quindi è un romanzo anche sugli sbagli che facciamo nei momenti in cui siamo chiamati a fare delle scelte e a non fare dei sbagli, ma che puntualmente invece facciamo. Ora che ti guardo bene, sembri proprio come me e non so se ho mai un bene, ma sto meglio insieme a te. E ti ricordi che sapore ha quel bacio dato a vuoto sotto casa quando ridevi, mentre la luce di un lampione illuminava un fiore. C'è un gatto. I due protagonisti si incontrano, Modesto e Aurora, nel giorno in cui lei, la protagonista femminile, insieme ad altre italiane, esprime il suo voto per la prima volta in Italia. È una giornata storica per l'Italia. Perché ha deciso di inserire questo aspetto nel libro? Ci sono molti aspetti che richiamano degli aspetti molto precisi, che richiamano alla storia italiana del Novecento, soprattutto del dopoguerra. E non è un caso che il romanzo si apra proprio inizi con lo sfondo di un'Italia che sta riprendendo il suo cammino, che sta cercando la sua configurazione, che sta ripensando il suo ruolo di qualche anno prima, sullo scenario storico, sta cercando di trovare una nuova forma di vita. E questo voto che appunto Aurora, insieme ad altre italiane che ha dato, che erano appunto delle elezioni amministrative, il primo è la prima occasione in cui dicevo, il primo è la prima edizione in cui le donne italiane hanno avuto, insomma, la possibilità di votare, era un è stato per me un rimarcare, un cercare di dare la giusta evidenza al fatto che in effetti l'Italia stava cercando, l'Italia tutta, ossia uomini e donne, stavano cercando di trovare un loro modo di vedere e di sperare. E ti ricordi che sapore ha quel bacio dato a vuoto sotto casa quando ridevi, haha, mentre la luce di un lampione illuminava un fiore. C'è un gatto col tuo nome, miau, dove va? Ti piacerebbe stare sotto al sole, sdraiati in un balcone e rimaniamo là. Mentre la strada brucia male, non ti farò del male, ti giuro mai, mai. Ora che ti guardo bene, sembri. È un libro particolare perché ci sono favole, ci sono pagine di diario, flashback, si alternano anche modelli stilistici diversi e alla fine tutto si compone come un puzzle. Come mai questa scelta stilistica? È una cifra, un semplice modo di scrivere, di avere la letteratura. Non ha un significato particolare. Ha solo quell'aspetto giocoso che non sempre apparezza nella letteratura in altri stilisti, insomma, dalla letteratura mondiale. Quindi era solo, è solo un escamotage, un modo di trattare la letteratura, di trattare la cosa letteraria, quello che si chiama lo stile. Ora che ti guardo bene, sembri proprio come me. E non so se è male o bene, ma sto meglio insieme a te. Cantiamo insieme na na na. Invece nel precedente romanzo La tua presenza è come una città, si sentiva proprio l'Unione Sovietica, si sentivano le sue radici di più forse che in questo romanzo, no? Sì, quello era un romanzo ambientato nell'ex Unione Sovietica, c'erano molte cose appunto che si riferivano alle mie radici, alle mie origini. Che era appunto il passato del mio paese, mentre questo appunto è il presente, il mio presente, anche se è il passato dell'Italia. Adesso lei torna a Palermo a breve per questo Festival della Migrazione. Che cosa significa la letteratura della migrazione per lei? La letteratura è sempre mobile, è sempre in movimento, come la cultura tutta, no? La cultura è proprio l'essenza della cultura, il non appartenere a nessuno ed essere di tutti, e comunque di essere sempre in movimento, sempre in fieri, sempre dinamica, come dinamico, come il fenomeno. Quindi si può dire che la letteratura è sempre in qualsiasi luogo migrante. Non sosta in nessun luogo e non ha dimora in nessun luogo in particolare, ma è qualcosa che appunto di cui che in qualche lasso del tempo ci appartiene anche a noi, ma appartiene anche ad altri, è sempre in movimento. Ti ricordi come che si fa? La vita mescolata insieme e poi divisa di nuovo a metà. Mentre corriamo in queste stanze, sta casa è così grande, ma che lavoro fa, wow, il tuo papà. Ti piacerebbe andare sulla luna? Portiamo un sacco a pelo e rimaniamo là. Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na. Ora che ti guardo bene, sembri proprio come me. Grazie per essere stata con noi a Rushka Giorioliani, che è in libreria con la casa editrice Voland Edizioni con questo romanzo Tre vivi, tre morti. Grazie. Grazie a voi, grazie per l'invito. Sicuramente io sono ascoltatori. Grazie. Per chiunque volesse seguire il Festival delle Letterature Migranti di Palermo, potete certamente farlo anche in streaming quest'anno, perché come sapete il Covid ci spinge a fare sempre più questi eventi online, quindi potete seguirlo di persona oppure in streaming sul sito del festival dal 21 al 25 ottobre, quindi da martedì a domenica prossima. E noi ci risentiamo proprio domenica prossima, sempre alle 14. Da Valentina Furlanetto è tutto, buona domenica a tutti, ciao. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.